140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Io più io, un album per festeggiare 20 anni di carriera per una splendida Siria. Ho sempre rimandato l'idea di fare una raccolta, un best, non mi sembrava il caso. Come si fa a non fare dopo 20 anni di carriera? Si fa, si guarda un po' indietro, cerchi di capire se tutto è stato fatto nella forma più giusta e con coerenza. E per quanto mi riguarda, nonostante i miei modi di vivere la musica, di sperimentare, di dividermi in otto, questa è la mia coerenza. Eccolo qua. Vabbè, 20 anni, fai come quando dico io sì, ho cominciato tanti anni fa, ma ero bambina. Esatto, quindi ero bambina, avevo 18 anni, iniziai col Festival di Sanremo, tanti dubbi, un'epoca anche a livello di musica, discograficamente parlando, diverso. C'erano tante occasioni per poter fare tanto e per potersi confrontare anche con gli addetti ai lavori, e quindi questa possibilità ha reso tutto molto elettrizzante, perché ogni volta che usciva un album c'era la possibilità di confrontarsi, anche di chiedere secondo voi ho fatto bene o no. Parli al passato, per adesso non si può più? Non si può più secondo te? Siamo tanti, oggi no, siamo in tanti, e quindi hai sempre paura che qualcosa sfugga, però se ci penso comunque c'è un pubblico che mi vuol bene da tanto, e questo per me è lo zoccolo duro. Poi sono felice di trovare nel mio mondo, nel nostro mondo, le persone con cui, gli addetti ai lavori, ripeto, con cui comunque sono cresciuta, che hanno visto le mie evoluzioni, con cui ho condiviso parole, interviste, e quindi sono felice di potermi raccontare ancora anche con le stesse persone, o di poter raccontare a una nuova amica cose di me che magari un po' conosce. È sempre un modo per... sono nuove energie, quindi sempre tutto in moto, mi piace questa cosa. Tabula rasa, condizione forzata, per scordare il passato, un salice piangente aiuta la gente a capire l'amaro. Adesso il rumore inseguito da spettri e luoghi comuni alle nostre lacrime. Noi non saremo mai immuni. Lontana da te non è un consiglio, ma un'imposizione. 200 chiodi quando sento il tuo nome, e non ti basta la mia carta. Storia di amicizie, Senza dubbio sì, anche perché le persone che hanno partecipato a questo concerto al Teatro Grande di Brescia per i miei 20 anni di carriera sono delle persone che ho incontrato nella mia vita, ma anche negli ultimi anni. E probabilmente quando si diventa grandi, quando fai anche un po' il resoconto, ripeto, anche a livello di amicizia, di certe cose si fa un po' una selezione naturale, quindi hai voglia di accogliere i rapporti, le emozioni, le parole con anche un po' più di determinazione e maturità. Quindi le amiche che sono venute su quel palco sono delle amiche della musica, delle artiste con cui c'è un vero confronto onesto, sincero, leale. Non c'è rivalità, ognuno ha la sua storia, però si collabora, si canta insieme. Cavolo, più di questo? Meglio di così. Quindi quella sera c'erano 50 elementi d'orchestra, era come stare a Sanremo, è stato bellissimo, abbiamo provato delle emozioni forti tutte. Poi magari ci sono artiste che sono abituate tanto tanto anche a questo, però io ho percepito negli occhi di ognuna un momento intenso, cioè una prima volta, ecco, una prima volta con me. Odio le piccole bugie che poi nascondono le grandi verità. È meglio un pugno in piedi ci sto. Tu sei anche fatta tanto di contrasti, perché sei elegante ma tatuatissima, musicista ma mamma. Ma è tutto molto naturale, poi alla fine anche in questo caso credo non ci siano più regole. Sono fatta così, mi divido in otto, ho probabilmente molti lati. Poi sono quella che magari è tatuata, ma quando canta in teatro si copre le braccia e non vuol fare vedere i tatuaggi per rispetto alla situazione. Poi magari vado a un festival di musica elettronica, cioè mi libero, ballo e sono in costume. Poi quando vado all'asilo, mi sveglio la mattina per fare i bambini, sono in tuta. O a volte addirittura al supermercato mi permetto un tacco, dipende, ma mi diverto, che ne so, vado anche a momenti, se no che noia, ma come il mio lavoro, cioè non... sono fatta così. È tutto per questa puntata di 140 caratteri con Siria. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.